pronti? Dottore, partito. Ciak, azione. Accettiamo l'amore che pensiamo di meritare. Audiogrammi di Laura Faggin e Paolo Corleoni. You are a cinema, a Hollywood treasure. I love you just the way you are. A cinema, a cinema. Mettetevi comodi, stiamo per raccontarvi Noi siamo infinito di Steven Chbosky. È la storia di Charlie, un ragazzo timido, intelligente e molto sensibile che all'inizio della scuola superiore entra nel gruppo dei ragazzi dell'ultimo anno che lo porteranno a vivere un ciclo di esperienze iniziatiche. La prima festa, la prima rissa, il primo amore, la prima volta. Incline più alla riflessione che all'azione, Charlie affida emozioni, gioie e turbamenti a una lunga serie di lettere indirizzate a un amico immaginario. Audiogrammi in radio come al cinema. Agosto 1991. Caro amico, ho deciso di scriverti perché ho sentito dire che sei uno che ascolta e che capisce. E perché non hai cercato di portarti a letto quella persona alla festa, anche se avresti potuto. Ti prego, non cercare di scoprire chi è lei, perché poi arriveresti a me e io non voglio. Userò dei nomi diversi o generici per non farti capire chi sono. È per questo motivo che non ho incluso un indirizzo a cui rispondere. Le mie intenzioni non sono cattive, sul serio. Ho soltanto bisogno di capire che là fuori c'è qualcuno che ascolta e che capisce. Ho bisogno di sapere che esiste gente così. E credo che tu, più di tutti gli altri, riuscirai a comprendere. Tutto qui. Ok, questa è la mia vita. E desidero che tu sappia che sono felice e triste al tempo stesso. E che sto ancora cercando di capire come ciò sia possibile. Non credo che nella nostra famiglia ci sia un figlio preferito. Siamo in tre e io sono il più piccolo. Mio fratello è il maggiore. È un bravo giocatore di football e adora la sua macchina. Mia sorella, la seconda, è davvero carina e con i ragazzi è cattivissima. Papà lavora sodo ed è un bravo uomo. Zia Ellen diceva sempre che lui non avrebbe mai avuto una crisi di mezza età perché è troppo orgoglioso. Zia Ellen era la persona che più amavo al mondo. Era la sorella di mamma. La zia trascorse con noi gli ultimi anni della sua vita. Le era successo qualcosa di brutto. Solo parecchio tempo dopo mamma mi rivelò cosa le era successo. Probabilmente adesso dovrei andare a letto, è molto tardi. Non so perché ho voluto raccontarti tutte queste cose, ma il motivo per cui ho deciso di scrivere questa lettera è che domani è il mio primo giorno delle superiori e me la sto facendo sotto. Sono il signor Anderson, sono l'insegnante di letteratura del primo anno. Questo semestre studieremo Il buio oltre la siepe di Arthur Lee. Libro geniale. Allora, chi vuole saltare il primo esame a sorpresa? Sono scioccato. Allora, potete evitare l'esame se mi dite quale autore ha inventato l'edizione Pascal. Chi lo sa? Ho finito Il buio oltre la siepe. L'insegnante del corso avanzato di inglese mi ha chiesto di chiamarlo Bill quando non siamo in classe e mi ha assegnato un altro testo. Dice che sono portato per la lettura e che sono molto bravo a comprendere l'uso del linguaggio. Mi ha detto di scrivere un saggio sul libro che ho appena terminato. So che l'anno scorso è stata dura per te, ma si dice che se ti fai un amico il primo giorno andrà tutto ok. Grazie, signore. Ma se il mio prof di letteratura è l'unico amico che mi faccio oggi, allora la cosa è un po' deprimente. Sì, in effetti hai ragione. Non si preoccupi, signor Anderson. Sto bene. Grazie. Settembre 1991. Caro amico, non ti ho mai detto che faccio laboratorio, vero? Beh, è così. È il mio corso preferito dopo quello di inglese avanzato. Il punto è che nel corso di laboratorio c'è un tipo di nome niente. No, non sto scherzando, si chiama così ed è davvero divertente. Ho un sacco di cose da raccontarti riguardo alle ultime due settimane. Innanzitutto Bill mi ha dato una C nel saggio su Il buio oltre la siepe. Dice che uso delle frasi troppo lunghe. Adesso sto cercando di togliermi il vizio. Zia Ellen permetteva sempre a noi bambini di restare alzati a guardare il Saturday Night Live quando ci faceva da babysitter. O quando viveva da noi e i miei genitori andavano da una coppia di amici a ubriacarsi e a fare qualche gioco di società. Forse è triste che adesso siano solo frammenti di memoria, o forse no. Il fatto è che adoravamo zia Ellen, soprattutto io. Ed erano quelle le ore in cui potevamo goderci la sua compagnia. Mancano solo 1384 giorni. Tanto perché lo sappiate, il liceo è anche peggio della scuola media. Se i miei mi chiedono com'è andata, non credo che dirò la verità, perché non voglio che si preoccupino che ricominci a stare male. Ciao. Se zia Ellen fosse ancora qui, potrei parlare con lei. So che capirebbe se le dicessi che sono sia felice che triste, anche se non ho ben capito com'è possibile. Spero solo di farmi presto un amico. Ti voglio sempre bene, Charlie. 6 ottobre 1991. Caro amico, l'altro giorno sono andato alla partita di football della squadra della scuola. Guardavo le persone per vedere chi era innamorato e chi era lì solo per perdere tempo. E ho visto quel ragazzo di cui ti ho parlato. Niente, ricordi? Forza ragazzi! Già, guarda, non avete speranze! Era alla partita ed era uno dei pochi presenti, adulti esclusi, realmente interessati all'incontro. Cioè, lo stava seguendo davvero. Ehi, Patrick. Ciao, tu sei al mio corso di laboratorio. Come sta venendo l'orologio? Me lo sta costruendo mio padre. Bravo. Il mio sembra una barca. Ti vuoi sedere qui o aspetti degli amici? No, arrivo. Vieni. Ti ringrazio per non avermi chiamato niente. È un incubo senza fine. E quei cazzoni sono anche convinti di essere originali. Senti, ti piace il football? Lo amo. Amo il football. Forse conosci mio fratello, allora. Ciao, Sam. Domanda, ci sono bagni più schifosi di questi? Sì, va dove c'è scritto uomini. Ah, ho parlato finalmente con Bob. Si esce stasera? Sta ancora cercando di sbattersi la cameriera di Olive Garden. Ah, non le darà mai la sua insalata. Patrick! Sì? Lui chi è? Lui è... Charlie, Kelmakis. Kelmakis? È un piacere, Charlie, sono Sam. Sam, qual è il programma? Andiamo a casa di Maria Elizabeth? No, l'hanno beccata a diluire il brandy dei suoi con il tè. Ce ne andiamo al Kings. Per inciso, Sam ha i capelli castani e due splendidi occhi verdi. Quel genere di verde che non fa parlare di sé. Soltanto quando siamo andati al Big Boy sono riuscito a guardarla bene. La cosa bella è che loro due non si sono messi a fare delle battute che non potevo capire. E io non mi sono dovuto sforzare di stargli dietro. Al contrario, mi hanno fatto anche delle domande. Qual è il tuo gruppo preferito? Direi che gli Smiths sono i miei preferiti. Stai scherzando? Io amo gli Smiths. Perfetti per quando ti lasci. Ciao, niente. Ciao, niente. E basta, Cristo, questo scherzo sa di muffa. È vecchio? Che vuoi fare quando andrai via da questo posto? Mia zia Ellen mi diceva di fare lo scrittore, ma... non saprei di cosa scrivere. Potresti scrivere di noi. Già, lo intitoli La sgualdrina e il falcone. Noi due che risolviamo crimini. Ragazzi, sembrate molto felici insieme. Da quanto tempo siete fidanzati? Lui non è il mio ragazzo, è il mio fratellastro. Mia mamma finalmente lasciò il mio inutile padre e sposò il suo bel padre quando ci trasferimmo qui. Ottobre 1991. Caro amico, Scusa se non mi sono fatto sentire per 2 settimane, ma come dice Bill, ho cercato di partecipare alla vita sociale. Ormai è tardi per iscrivermi a un club o associazioni simili, ma cerco comunque di fare altre cose, come andare alla partita di football e al ballo degli ex alunni, anche se non ho una ragazza. Ho trovato Sam e Patrick al solito posto, sulle gradinate scoperte. Sam mi ha sorriso. Patrick era impegnato a guardare la partita e a urlare dietro a Brad, il quarterback. Quella sera mi hanno detto che più tardi sarebbero andati a una festa a casa di un amico e se volevo unirmi a loro. E io ho detto di sì perché non ero mai stato a un party prima. Sam e Patrick mi hanno portato alla festa quella sera e io ero seduto in mezzo a loro, sul pick-up di Sam. Mi è successo quando Sam ha chiesto a Patrick di cercare una stazione alla radio e lui continuava a beccare spot pubblicitari uno dopo l'altro. Alla fine ha trovato questo bellissimo motivo che parlava di un ragazzo come noi e siamo rimasti tutti e tre in silenzio. Sam tamburellava sul volante, Patrick teneva la mano fuori dal finestrino e disegnava delle onde nell'aria. E io ero lì, seduto in mezzo a loro, e ho detto questa cosa. Che c'è? Mi sento infinito. Sam e Patrick mi hanno guardato come se avessi pronunciato la frase più grandiosa che avessero mai sentito. Perché la canzone era stupenda e l'avevamo ascoltata davvero con attenzione. In seguito mi sono comprato il disco e potrei anche rivelarti il titolo della canzone. Ma a dire il vero non è la stessa cosa se non stai andando alla tua prima vera festa e se non ti trovi su un pick-up seduto tra 2 persone stupende mentre fuori inizia a piovere. Email audiogrammi @radio24.it. Siamo arrivati alla casa del party e Patrick ha bussato. La porta si è aperta appena e questo tizio, Bob, con i capelli ricci e crespi, ha sporto fuori la testa per guardarci. La festa si teneva nel seminterrato di casa sua. Il locale era pieno di fumo e i ragazzi erano molto più grandi di me. Sam e Patrick hanno iniziato a fumare sigarette e in quel momento ho visto Brad, il quarterback della squadra della scuola. Giuro. Sono stati tutti molto gentili con me e mi hanno fatto un sacco di domande. Probabilmente perché ero il più piccolo e non volevano farmi sentire fuori posto. Mi sono guardato in giro e ho notato che Patrick se n'era andato con Brad. Io e Sam siamo saliti in cucina e lei ha acceso la luce. Ha preso del gelato, un po' di latte e un frullatore. Dov'è il bagno? In cima alle scale. Grazie, Sam. Sei tanto carina. Uscendo dal bagno ho sentito un rumore provenire dalla camera in cui avevamo lasciato le giacche. Ho aperto la porta e ho visto Patrick che baciava Brad. Sembrava un bacio rubato. Si sono accorti della mia presenza e si sono voltati. È stato Patrick a parlare per primo. Charlie, senti. Ora devi promettere che non dirai niente di questa storia tra me e Brad. Ok? Deve essere il nostro piccolo segreto. Il nostro piccolo segreto. Va bene. Ok, grazie. Dopo parliamo. Non vedo l'ora di parlare. Con questo si è voltato ed è rientrato nella stanza. Ho sentito delle voci smorzate e Brad che sembrava agitato. Ma ho pensato che non fossero affari miei e sono tornato in cucina. È successa un'altra cosa interessante a casa di Bob, prima che ce ne andassimo. Patrick è sceso nel seminterrato. Evidentemente Brad se n'era andato. E lui sorrideva. Ehi, statemi a sentire. Tutti qua. Amici cari, in alto i calici per Charlie. Perché? Che ho fatto? Non hai fatto niente. Voglio brindare a un nuovo amico. Tu osservi le cose e le comprendi. Sei un ragazzo da parete. Che c'è che non va? Credevo che nessuno mi avesse notato. Pensavamo che non ci fossero altri fichi da conoscere. Su, forza. Tutti quanti. A Charlie. A Charlie. Dopo la festa siamo saliti sul pick-up di Sam per tornare a casa. Questa volta guidava Patrick. Oh mio Dio, cos'è questo pezzo? Bello, eh? Non ne ho idea. L'hai mai sentito questo pezzo? No, mai. Ci stavamo avvicinando al Fort Pitt Tunnel quando lei gli ha chiesto di accostare. Sam è montata sul cassone con indosso solo il vestito da ballo. Ha detto a Patrick di ripartire e lui ha sorriso. Immagino che per loro non fosse la prima volta. Ma che sta facendo? Ah, non ti preoccupare, lo fa sempre. Avanti, alza! Sì, Vostra Altezza. Comunque, lui ha schiacciato a tavoletta e appena prima di imboccare la galleria, Sam si è alzato in piedi. Il vento trasformava il suo abito in onde oceaniche. Quando siamo entrati nel tunnel, ogni suono è stato risucchiato dal vuoto. C'era solo una canzone che usciva da una cassetta nell'autoradio. Una canzone molto bella. In quel momento, ti giuro, ci siamo sentiti infiniti. Sempre con affetto, Charlie. 7 novembre 1991. Caro amico, oggi è stato uno di quei giorni in cui andare a scuola non mi è pesato. Il tempo era così bello. Ho iniziato a lavorare al Punky Rock. È una rivista dedicata al punk rock e al Rocky Horror Picture Show. Lo dirige Mary Elizabeth. È una persona davvero interessante perché ha un tatuaggio che simbolizza il buddismo e ha questa pettinatura che ti fa andare fuori di testa. E quando a capo di qualcosa, però, si comporta come un papà quando rientra dopo una lunga giornata. È all'ultimo anno e dice che mia sorella è dispettosa e snob. Di tutte le cose che ho fatto quest'anno, almeno finora, credo che la migliore sia il Rocky Horror Picture Show. Patrick e Sam mi ci hanno portato la sera di Halloween. Datemi una C! Datemi una K! Datemi una Y! Tutto insieme! Sia Patrick che Sam fanno parte dello spettacolo, ma è dura guardarlo perché lei se ne va in giro sul palco tutto il tempo in slip e reggiseno. Mi sto sforzando di non pensare a lei in quel modo, ma diventa sempre più difficile. Vuoi la verità? Me ne sono innamorato. Non è uno di quegli amori che si vedono nei film. È solo che ogni tanto la guardo e trovo che sia la ragazza più carina e simpatica del mondo. E poi è intelligente e spiritosa. Le ho scritto una poesia dopo averla vista nel Rocky Horror Picture Show, ma non gliel'ho fatta leggere perché mi vergognavo. Il fatto è che adesso sta uscendo con un tipo di nome Craig. Adesso penserai che sono geloso. Beh, non è così, giuro. È solo che non l'ascolta veramente quando parla. Con questo non voglio dire che sia un cattivo ragazzo. Mi sembra distratto, ecco. Sempre con affetto, Charlie. Well, a landslide bring you down. Oh, a landslide bring you down. 7 dicembre 1991. Caro amico, hai mai sentito parlare di un gioco chiamato Babbo Natale Segreto? Un gruppo di amici pesca da un cappello dei bigliettini su cui sono scritti dei nomi. E ognuno deve comprare un sacco di regali alla persona che ha estratto. Non so chi abbia pescato il mio nome. Io sarò il Babbo Natale di Patrick. Sono contentissimo, anche se avrei preferito essere quello di Sam. Da qualche settimana io e Patrick ci vediamo solo a scuola nelle ore di laboratorio, perché passa quasi tutto il tempo con Brad. Quindi occuparmi dei suoi regali è un modo per pensare a lui. Il primo sarà una cassetta mixata. Ci ho lavorato tutta la notte e mi auguro che a Patrick piaccia quanto piace a me. Sempre con affetto, Charlie. Once a Jesus infant, heaven could not see him, and now my ship is sinking. The captain stands alone. Thank you. Email audiogrammi@radio24.it. 21 dicembre 1991. Caro amico, posso cercare di illustrarti la scena, se vuoi. Eravamo tutti seduti a casa di Sam e Patrick. Non c'ero mai stato prima. È una casa lussuosa, molto pulita. E ci stavamo scambiando gli ultimi regali. Le luci esterne erano accese e nevicava. Era tutto così magico. Sembrava quasi di essere altrove, in un posto migliore. Ok, fratello maggiore di 3 settimane. Chi è il tuo Babbo Natale? Ti dirò, Sam. È complicato. Ho ricevuto un'armonica, un set di parole magnetiche, un libro su Harvey Milk e una cassetta mista con il pezzo a slip registrato 2 volte. Non ne ho proprio idea. Cioè, è una serie di regali così gay che potrei anche essermeli fatti da solo. Ma a parte questa notevole possibilità, io direi che l'indiziato è... Rollo di tamburi? Charlie. Bravissimo. Ovviamente. A quel punto Patrick ci ha fatto ascoltare il lato B della cassetta che ho registrato per lui e ha versato a tutti un altro bicchiere di brandy. Dovevamo sembrare degli sciocchi in quel momento, ma non ci sentivamo tali. Patrick è venuto verso di me e mi ha detto che tutti i grandi scrittori ne indossano una, in ogni situazione, e mi ha dato una giacca. Così me la sono infilata, anche se non sentivo di meritarla davvero, dal momento che tutto quello che scrivo sono i saggi sui libri che mi assegna Bill. Ma era un regalo bellissimo e tutti hanno applaudito. Sì, grandissimo! Che pezzo di fanciullo che sei! Mary Elizabeth mi ha sorriso e per la prima volta nella mia vita, credo, mi sono sentito ok. Altre persone hanno distribuito i loro doni scambiandosi abbracci. Infine è toccato a Sam. Avevo pensato a lungo al suo regalo. Era un vecchio 45 giri dei Beatles con la canzone Something. Era un regalo di zia Helen. Lei mi ha portato nella sua stanza e mi ha fatto mettere davanti al suo cassettone, coperto da una federa colorata. Dove mi porti? È una sorpresa. È la tua camera? Mm-hmm. Che figa. Grazie. Mi hai fatto un regalo. Dopo che mi hai aiutata per l'esame d'ammissione. Certo che te l'ho fatto. Aprilo. Non so cosa dire. Allora non dire niente. Mi sono ritrovato lì, in piedi, con addosso il mio abito, a guardare una vecchia macchina per scrivere con un nastro nuovo di zecca. Dentro c'era già un foglio bianco. Sam ha battuto queste parole. Scrivi di noi. E io le ho risposto nello stesso modo. Ero lì, in piedi, nella sua camera da letto, e mi sono limitato a dattilografare. Lo farò. Sono felice che quella sia stata la prima parola che ho scritto con la macchina regalatami da Sam. Siamo rimasti seduti lì in silenzio per un istante e lei mi ha sorriso. Charlie, io so che tu sai che a me piace Craig, ma voglio lasciarlo da parte per un minuto, ok? Ok. Perché voglio essere assolutamente sicura che la prima persona che ti bacia ti voglia bene, ok? Ok. Stava piangendo a dirotto adesso e piangevo anch'io perché quando sento frasi simili non posso farne a meno. E mi ha baciato. È stato quel genere di bacio di cui non puoi parlare ad alta voce con i tuoi amici. Quel genere di bacio che mi ha fatto capire che non ero mai stato così felice prima. Ti voglio bene, Charlie. Ti voglio bene anch'io. Lei mi ha guardato con dolcezza e mi ha stretto a sé. Io ho chiuso gli occhi perché volevo perdermi tra le sue braccia. Ho capito che intendeva dire come amica, ma non mi importava perché dalla morte di zia Helen era la terza volta che qualcuno mi diceva quelle parole e le altre due era stata mia madre a dirle. Sempre con affetto, Charlie. Sing me to sleep, sing me to sleep. I'm tired and I want to go to bed. Sing me to sleep, sing me to sleep. Ti voglio bene, Charlie. And then leave me alone. Don't try to wake me in the morning. cause I will be gone. Don't feel bad for me, I want you to know. Deep in the cell of my heart, I will feel so glad to go. 26 dicembre 1991. Caro amico, sono seduto nella mia camera. Natale è passato. Di solito ci fermiamo a visitare la tomba di zia Helen. È una specie di tradizione. Voglio che tu sappia perché. Probabilmente dovrei spiegartelo. Mi riferisco alla brutta cosa che è successa a zia Helen, di cui non volevano dirmi nulla quando ero piccolo. Ogni volta che viene Natale riesco a pensare solo a quello nel profondo del mio cuore. Ed è proprio questo pensiero che mi rende così triste. Non dirò chi, non dirò quando. Mi limiterò a confidarti che zia Helen venne molestata. Odio quella parola. Il colpevole fu una persona molto vicina a lei, non suo padre. Alla fine ne parlò con lui, che non le credette. Quello che accusava era un amico di famiglia, e questo peggiorò le cose. Nemmeno mia nonna ne fece mai parola. E quel tizio continuò a presentarsi a casa loro. Zia Helen beveva molto, ed era una tossica. Aveva un sacco di problemi con gli uomini e con i ragazzi. Fu infelice per gran parte della sua vita. Veniva ricoverata di continuo in ospedali di ogni genere. Alla fine entrò in una clinica dove la aiutarono a rimettere in ordine le idee e a tornare alla normalità. Così venne a vivere con noi. Era l'unica persona, oltre ai miei genitori e ai miei fratelli, che mi faceva sempre due regali, uno per il mio compleanno, uno per Natale. Ed erano sempre i migliori. Il 24 dicembre del 1982 un poliziotto suonò alla porta. Zia Helen aveva avuto un terribile incidente. Nevicava forte. La gente disse a mia madre che sua sorella era deceduta. Fu molto gentile perché quando lei cominciò a piangere, le disse che l'urto era stato tremendo e che zia Helen era sicuramente morta all'istante. In altre parole, non aveva sofferto, aveva smesso di star male. Non so che cosa accadde in seguito, in realtà. Non l'ho mai chiesto ai miei. Malgrado tutto ciò che mi hanno detto mia madre, mio padre e il dottore riguardo al senso di colpa, non riesco a non pensare a quello che so. So che zia Helen sarebbe ancora viva oggi se mi avesse comprato un solo regalo come tutti gli altri. Sarebbe ancora con noi se fossi nato in un giorno senza neve. Farei qualsiasi cosa per scacciare quest'idea. Mi manca da morire. Adesso devo lasciarti perché sono troppo triste. Sempre con affetto, Charlie. 4 gennaio 1992. Caro amico, non ricordo molto della festa di Capodanno, ma a giudicare da come mi sono svegliato non doveva essere stata una serata molto carina. Tutto quello che mi viene in mente riguardo a quella nottata è il fatto che ho vagato per la casa alla ricerca di un francobollo da mettere sulla lingua. Poi sono sceso dalla collina, oltre gli alberi, fino a raggiungere il prato. E poi ho iniziato a vomitare. E ho continuato così fino a quando non è spuntato il sole. Non riuscivo a smettere. La polizia mi ha trovato livido per il freddo. Io dormivo. Ti hanno costretto i tuoi amici più grandi? Nessuno mi ha costretto, davvero, agente. Io non farei mai uso di droghe. Mai. Allora com'è che eri svenuto per strada alle 6 del mattino? Perché, sì, ero molto stanco. E avevo dei brividi di febbre. Allora sono uscito in strada per farmi una passeggiata e prendere un po' d'aria e ho avuto delle allucinazioni e sono svenuto. Hai di nuovo le allucinazioni, Charlie? No, non proprio. Ho smesso di tremare solo parecchie ore dopo che i miei mi avevano portato a casa dal pronto soccorso. Sapevano tutti che ero stato a una festa, ma nessuno, nemmeno mia sorella, pensava che fosse dovuto a quello. E io ho tenuto la bocca chiusa perché non volevo che Sam, Patrick, Bob o qualcun altro finissero nei pasticci. Così ho taciuto. Oh, mi ha detto che il mio saggio sul giovane Holden, che ho scritto con la mia nuova macchina, è il migliore tra quelli che gli ho consegnato finora. Sto imparando a sviluppare i temi molto rapidamente, ha osservato. Come premio mi ha dato un libro diverso, Sulla strada, di Jack Kerouac. Sempre con affetto, Charlie. Fine primo tempo. Il secondo tempo di Noi siamo infinito, domenica prossima, alle 20:10. Audiogrammi è un programma ideato e condotto da Laura Faggin e Paolo Corleoni. Voce, Laura Faggin. I love you just the way you are.